La Bibbia, Coelet, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. La nostra lettura biblica da tempo segue, da una decina ormai di puntate, segue questo libro sapienziale, abbastanza eterodosso, diremmo, a prima vista. Un libro che ci invita a considerare la Bibbia non soltanto come una specie di testo immerso negli incensi sacrali, ma anche di un libro che è sorto nell'ambito della sofferenza, dell'interrogazione, del dubbio, della crisi degli uomini. Ecco, possiamo dire che quasi è nel chiuso di una stanza in cui c'è una specie di filosofo, com'è questo Coelet, l'Ecclesiaste, il quale si interroga, si pone le domande fondamentali e non trova delle risposte. Ed effettivamente nel capitolo 9 che ora leggiamo, vediamo venirci incontro soprattutto il nostro destino. La morte è una voragine in cui tutti indistintamente precipitiamo, prescindendo proprio dai nostri meriti, dai nostri delitti. Ecco, Coelet, sentiremo tra poco, esemplifica questa sorte oscura, comune, in cinque coppie antitetiche di persone. La morte attende il giusto e l'empio, il puro e l'impuro, il pio e l'empio, l'onesto e il peccatore, il sincero e lo spergiuro. Ebbene, tutti costoro, quando piombano nella morte, negli inferi, diventano tutti inconsistenti, tutti cadono nell'oblio, nel silenzio, si spegne ogni luce, non c'è più nessuna conoscenza. E allora ancora una volta Coelet esorta, finché c'è vita, ma non è una soluzione questa, non è una tesi che permetta di aggrapparsi e trovare un senso a questa vita così sghemba, così sconcertante, ebbene invita a non perdere il godimento dei piccoli piaceri che l'esistenza ci riserva. Vedremo il cibo, l'eleganza, l'amore, ma egli sa che questa non è una soluzione capace di spiegare e di dar senso a tutta la fatica che noi dobbiamo sopportare sotto il sole. E chi ha seguito a lungo le letture di Coelet sa che sotto il sole è un'espressione a lui cara, una specie di triste firma, perché sotto il sole c'è soltanto la nostra miseria illuminata da quei raggi. Ho riflettuto su tutto ciò e sono arrivato alla conclusione che i giusti, i sapienti e le loro azioni sono nelle mani di Dio. Gli uomini non conoscono nemmeno l'amore e l'odio, per quanto tutto si svolga davanti a loro. Unica è la sorte che tocca a tutti, al giusto e all'empio, al buono e al cattivo, al puro e all'impuro, a chi offre sacrifici e a chi non li offre, all'onesto e al peccatore, a chi giura e a chi teme di giurare. Questo è il male che investe tutto ciò che si fa sotto il sole. La stessa sorte tocca a tutti, e per di più il cuore dell'uomo è pieno di cattiveria. La follia è nel suo cuore durante la vita e dopo, giù, nel soggiorno dei morti. Finché uno è vivo, c'è speranza, perché è meglio un cane vivo che un leone morto. Infatti i vivi sanno che devono morire, ma i morti non sanno nulla. Per loro non c'è più guadagno. Il loro ricordo svanisce. Il loro amore, il loro odio, la loro ambizione, tutto ormai è scomparso. Non avranno più parte alcuna con il mondo, con tutto ciò che accade sotto il sole. E allora via, mangia nella gioia il tuo pane e bevi con cuore lieto il tuo vino, perché questo è quanto Dio vuole che tu faccia. In ogni tempo siano candide le tue vesti, né manchi il profumo sul tuo capo, Godi la vita con la donna che ami, giorno per giorno, durante questa vita fugace che ti è stata data sotto il sole. Questo, infatti, è quanto solo ti spetta per la vita e per tutta la fatica che tu sopporti sotto il sole. Tutto ciò che fai fallo finché ne hai la forza, perché non ci saranno né azione, né pensiero, né scienza, né sapienza negli inferi dove tu stai andando. Ho scoperto un'altra cosa sotto il sole. La corsa non la vince chi è veloce, né la battaglia la vincono i più forti, né ai sapienti tocca il pane, né agli abili le ricchezze, né agli accorti il favore, perché su tutti incombono il caso e l'occasione. E per di più l'uomo non conosce il giorno della sua morte. È come i pesci che incappano in una rete maledetta, e come gli uccelli che vengono presi con il laccio. Allo stesso modo viene sorpreso l'uomo nel giorno fatale che gli piomberà addosso all'improvviso. Ho visto anche quest'altro esempio di sapienza sotto il sole, che per me ha molto valore. C'era una piccola città con pochi abitanti e un grande re venne contro di essa. L'assediò, erigendole attorno grandi fortificazioni. In essa si trovava però un uomo di umile origine, ma sapiente, che con la sua sapienza salvò la città. Eppure, nessuno ha più ricordato quell'uomo umile. Ho concluso allora che la sapienza vale più della forza, ma che la sapienza dell'umile è disprezzata e le sue parole non sono ascoltate. Le parole dei sapienti, pronunciate con calma, si capiscono meglio delle urla di un potente che parla in mezzo agli stolti. Vale più la sapienza degli strumenti da guerra, ma un solo sbaglio può rovinare un gran bene. Coelet, riproponendo cinque esempi ulteriori, dopo i primi che abbiamo presentato precedentemente, le cinque coppie antitetiche, ci ricorda di nuovo che l'uomo ignora il giorno della sua morte. Quali sono le coppie? Le coppie che presenta, o meglio se volete, gli esempi che presenta sono il più veloce, la persona più veloce, che non è sempre in grado di vincere la corsa, la persona più forte, che non è sempre in grado di vincere la lotta, il sapiente, che non riesce sempre ad avere fortuna, l'abile, che non riesce ad arricchirsi, l'accorto, l'astuto, che non riesce ad avere successo. Spesso il fallimento è proprio deciso quasi dal caso. Non è in mano nostra poter mutare il percorso degli eventi. E Coelet ha usato, avete sentito, un'immagine abbastanza provocatoria. Ci si sente simile a uccelli o a pesci catturati da una rete. Invano ci agitiamo, il nostro destino è solo la morte e la nostra libertà rimane del tutto incatenata, imprigionata. Ecco, abbiamo una pagina veramente amara, veramente triste, che riflette appunto l'impossibilità di sapere qual è il nostro vero destino, non solo la morte, ma un po' il senso di tutto. E ricordo anche che in finale abbiamo sentito tutta una serie di proverbi, che di solito vengono chiamati i proverbi quasi di Coelet, ed è una raccolta di detti o di riflessioni di vario genere. Il nostro autore era un sapiente, anche lui dimostra di conoscere alcuni temi della sapienza tradizionale, ma la sua è sempre una lettura abbastanza amara. I proverbi che lui propone sono sempre proverbi che ci fanno capire che alla fine, forse, grande successo non è mai riservato a nessuno. Abbiamo trasmesso La Bibbia, Coelet, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, Lettura di Alarico Salaroli.